sembra una cosa incredibile, ma è così. Lo Stato non sa prendere una linea perché è diviso tra i pentiti delle privatizzazioni e quelli invece che vorrebbero andare avanti su una strada ormai segnata. E questo, diciamo, questa dicotomia crea questo stop and go delle situazioni per cui metà delle concessioni, tra l'altro quelle che interessano i gruppi maggiori, dove è più facile fare demagogia, sono passate e stanno lavorando, e l'altra metà, che interessa soprattutto, diciamo così, i gruppi minori, sono bloccate da una legge che approva le convenzioni ma inserisce le prescrizioni del CIPE a valle della legge, il CIPE che non ha ancora deciso le prescrizioni, e questo blocca tutto. Sembra una cosa quasi difficile da spiegare, è un po' kafkiana, si potrebbe dire, però l'ha descritta molto bene, direttore. Io credo che sia questa, un po' di guerra della burocrazia tra i pentiti delle privatizzazioni e invece quelli che ritengono che sia una strada ormai irreversibile quella dell'accesso al mercato privato dei capitali.